quando la vita era tutta un balla e canta. Gli anni ottanta li ricordo molto bene. Cantavamo e ballavamo tutti insieme. Gli anni ottanta sono stati un gran decennio. Si cantava e si ballava tutto il giorno. Mi ricordo gli anni ottanta, che gran spallo. Tutti dediti al canto e pure al ballo. Ho tanta voglia di anni ottanta, voglia. Ho tanta voglia di anni ottanta, voglia. Gli anni ottanta sono stati 10 anni. Si ballava e si cantava senza affanni. Quanti anni sono stati gli anni ottanta? Che se non ballavi ti dicevan canta. Accidenti, gli anni ottanta, che anni d'oro. Gli anni ottanta li ho vissuti per 3 anni. Ed ero piccolo, avevo meno di 3 anni. E in effetti ricordo poco di quegli anni. Ma 3 anni so 3 anni, e che 3 anni